in primo piano. Buongiorno, buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Faremo anche qualche piccola incursione in quelli stranieri per vedere di che cosa parlano. C'è stata in Italia una pausa di 2 giorni per i quotidiani, di 4 addirittura per il Sole 24 Ore a causa dello sciopero del nostro giornale, e quindi spero che tutti voi oggi abbiate particolarmente voglia di vedere finalmente di nuovo i giornali, di sfogliarli, di toccarli. E cominciamo dal Sole 24 Ore, che cerca un po' di, anche se vogliamo, recuperare questi giorni perduti, parlando soprattutto della manovra, la manovra che è finalmente legge, è stata approvata. Sapete che ormai le Camere sono tecnicamente non ancora sciolte, ma sicuramente non si farà più praticamente niente né in Parlamento né in Senato. Quindi quel che è fatto, e le ultime novità riguardano appunto la manovra, in particolare le pensioni. Quindi alla pagina 2 trovate tutto quello che, come cambiano un po' le regole, diventano più semplici per la pensione anticipata, le novità per il contratto degli statali, anche questo approvato in extremis. E poi dalla prima pagina vi segnalo la curiosità raccontata da Maximilian Cellino. C'è stato, sapete quanto ormai contino gli algoritmi e la cosiddetta fintech, la finanza che funziona anche grazie alla tecnologia, e anzi forse è dominata dalla tecnologia. Il 25 di dicembre l'euro ha perso il 2% del suo valore ed è stato in un certo senso quello che Maximilian Cellino definisce il pacco di Natale dell'algoritmo. Cosa accadrebbe se i mercati finanziari fossero guidati dalle sole macchine? Qualcuno se l'è chiesto il 25 dicembre, quando l'euro ha perso in pochi minuti il 2%. Certo, rispondere a simili interrogativi sempre più frequenti in un mondo in cui il ruolo giocato da algoritmi e trading ad alta frequenza cresce ogni giorno è probabilmente impossibile. E poi trovate a pagina 27 appunto questa curiosità che comunque deve farci un po' pensare su quanto sia opportuno delegare alle macchine, per esempio, il funzionamento dei mercati finanziari, o in questo caso quello del mercato valutario. Il Corriere della Sera sceglie un'apertura diversa, che è legata a una vicenda che in realtà è una notizia dei giorni scorsi, ma come dicevamo sui giornali può trovare spazio solo oggi, e riguarda quello scambio ne avevamo parlato nella rassegna stampa di domenica, una specie di promessa del nostro governo guidato da Paolo Gentiloni di aiuto alla Francia in Niger, con una specie di invio, non una specie, un invio di soldati, di militari italiani in Niger, e questo ha scatenato molte reazioni. Il Corriere della Sera lega questa notizia, per quanto riguarda così le ultime dal governo che presto, insieme a questa legislatura, darà l'arrivederci, che sarà forse un arrivederci soprattutto per il premier Gentiloni, che potrebbe essere, molti dicono, in vista anche della grande incertezza che c'è intorno al voto del 4 marzo, potrebbe essere un traghettatore. Comunque vedremo. In ogni caso, un altro membro del governo, il ministro Calenda, che è al centro, e si spera anche qui che una soluzione arrivi prima della fine dell'anno, comunque prima della fine della legislatura, è al centro delle trattative sull'ILVA, la più grande acciaieria d'Europa, che è stata ceduta al gruppo indiano, ma sul suo futuro pende un ricorso presentato dal presidente della regione Puglia Emiliano e dal sindaco di Taranto, e quindi c'è anche questo elemento nel titolo del Corriere della Sera. Perché poi a pagina 3 c'è un'intervista a Carlo Calenda che difende ancora una volta, forse appunto una delle ultime occasioni che ha, l'idea che le riforme non vanno fermate e che in Italia non si può andare avanti con questa politica dei veti. La vicenda più recente naturalmente è quella dell'ILVA, ma ci sono tantissimi esempi che potremmo fare di questa legislatura e di tante delle 16 precedenti. Ultima segnalazione, prima di fermarci un attimo per un aggiornamento sul traffico, il Corriere Economia, normalmente è in edicola lunedì con il Corriere, ma come dicevamo lunedì i giornali non c'erano, quindi viene allegato oggi al Corriere della Sera, in copertina come sempre la foto di un personaggio, questa volta addirittura non è il personaggio della settimana ma il personaggio dell'anno, secondo il Corriere Economia, ed è Mario Draghi, che decisamente non li dimostra, ma ha 70 anni ed è il presidente della Banca Centrale Europea. Vi segnalo ancora, scusate, così chiudiamo con i supplementi, che invece è il suo giorno di uscita e quindi viene allegato al Corriere della Sera il settimanale Buone Notizie, che appunto è un settimanale che cerca di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno e scova le buone notizie. In copertina la storia dell'associazione Cometa che aiuta i minori in difficoltà. Ci lasciamo un attimo, come dicevo, per una prima pausa sul traffico. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei giornali. Abbiamo visto quella del Sole 24 Ore, del Corriere, ora la Repubblica che si occupa di uno dei colpi di coda, diciamo, della legislatura che si sta per chiudere. E avete sentito tutti il fatto che il provvedimento sullo Ius Soli non può essere discusso, è stato tecnicamente rimandata la discussione al 9 di gennaio, quando le Camere con altissima probabilità saranno state sciolte. E quindi la Repubblica riprende questo tema anche con un editoriale del condirettore di Repubblica Tommaso Cerno intitolato La fuga di fronte ai diritti. Camera si chiude, ma sullo Ius Soli appelli e proteste. E poi una, come potremmo dire, bizzarra fotonotizia dedicata a Fausto Brizzi, il regista di Poveri ma ricchissimi, il film che è uscito poco prima di Natale, in realtà senza indicare il suo nome, perché prima dell'uscita Fausto Brizzi era stato accusato, tra l'altro ancora non formalmente con una denuncia vera e propria, di molestie da alcune attrici. Quindi i produttori hanno ritirato la sua firma e ora il titolo di questa fotonotizia, con un articolo poi a pagina 17 di Goffredo De Marchis, è accusato di molestie, Brizzi fa grandi incassi e altri tre film. E dicevo bizzarra perché appunto prima di tutto le accuse non sono formalizzate, diciamo, proprio presso un tribunale e comunque andrebbero dimostrate. In secondo luogo, quale sia il nesso tra il fatto che il film fa grandi incassi nonostante le accuse di molestia al regista, a me personalmente sfugge, ma vedremo che anche sul giornale, per esempio Renato Farina, cattolico doc, lo dico perché comunque le accuse a Fausto Brizzi, anche se non sono formalizzate, non sono un bel episodio, non sono comunque una medaglia per quest'uomo, prima ancora che per regista. E che cosa c'entri collegarlo? Ma vedremo, appunto, non voglio anticipare perché anche quello è un articolo che mi ha molto colpito. Il Messaggero, come il Corriere della Sera, torna sulla vicenda Niger, missione antiscafisti in Niger, e poi Camera al termine, voto a marzo, quindi confermato per chi non avesse preso nota magari preso dai pranzi natalizi, che appunto ormai è sicuro, si vota il 4 di marzo e già domani dovrebbe il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe ufficialmente chiudere le Camere. Una fotonotizia che poi viene approfondita a pagina 3, e la notizia la trovate anche su altri giornali, e riguarda la Libia, perché c'è stato un attacco dell'ISIS, questa volta proprio a un oleodotto. Il prezzo del petrolio come conseguenza si è impennato, perché sapete che la Libia appunto è uno dei paesi, forse il paese, come diceva, come raccontava Gigi Donelli prima nel GR, con le riserve più di petrolio accertate più grandi dell'Africa. Molto interessante, come sempre, la prima pagina dell'Avvenire, perché da una parte si torna sulle parole del Papa al giorno di Natale, che ha parlato soprattutto di quelli che ha definito i bambini traditi, e come nei volti dei bambini che vivono nei paesi martoriati o da guerre o da disastri naturali o da siccità, carestie e malattie, ci sono le ferite del mondo. E poi la fotonotizia dedicata allo Yemen, perché lo Yemen resta, secondo Avvenire, ma secondo chiunque sia esperto di politica internazionale e venga interpellato sulla questione, resta la peggiore emergenza umanitaria in questo momento nel nostro mondo. Yemen piagato da guerra, fame e malattie. E trovate tutto a pagina 7. La stampa, anche in questo caso, cerca, come dicevamo, dopo qualche giorno di blackout di notizie sulla carta, riassumere tutto quello che è successo in questo fine legislatura, quindi nomi in Europa, conti e migranti, Gentiloni ai tempi supplementari. Come vi dicevo, si dice da più parti che, vista l'incertezza del voto del 4 di marzo, probabilmente Gentiloni, anzi è già quasi previsto che sarà una specie di traghettatore. Il Fatto Quotidiano dà una nuova, ennesima mazzata al PD e a Renzi con questo titolo: Renzi, missione compiuta, ora al 40% c'è il centrodestra di Berlusconi. Secondo il Fatto Quotidiano questo si chiama effetto Etruria. Lo scandalo delle banche affossa il PD, che ormai ha i minimi storici nei sondaggi. La Verità, un approfondimento ancora diverso, anche qui è una notizia di qualche giorno fa, ma come legittimo che i giornali facciano, soprattutto quando appunto c'è stato questo piccolo blackout, viene approfondita, ed è il cosiddetto matrimonio, che secondo La Verità comunque è un matrimonio improprio, tra FS e ANAS, treni e strade, la grande abbuffata. Con un blitz prenatalizio, Renzi e Gentiloni battezzano un mostro senza precedenti. Quindi è chiara la posizione della Verità. Obiettivo: privatizzare e quotare in borsa i gioielli pubblici, confermando alla guida manager amici. Il giornale invece sceglie di approfondire la questione dello Ius Soli e tutte le reazioni che ci sono state all'affossamento di questo provvedimento, i razzisti dello Ius Soli. Il riferimento è a una dichiarazione dell'UNICEF, l'agenzia, sapete, delle Nazioni Unite che si occupa dei diritti dell'infanzia, dove appunto è trapelato che il parere dell'UNICEF, anche qui forse le parole potevano essere diverse, idiota e fascista chi lo critica, chi critica lo Ius Soli. Il Libero, ecco, appunto era su Libero l'articolo su Brizzi che mi aveva fatto effetto. Il titolo principale è "Finalmente se ne vanno", e il riferimento naturalmente è a questo Parlamento e ai parlamentari, quindi sia la Camera dei Deputati che il Senato. Ma la fotonotizia è dedicata appunto, con un lungo articolo di Renato Farina, che poi trovate a pagina 13, "Poveri ma ricchissimi batte tutti al botteghino. Il film di Brizzi, presunto molestatore, è il re degli incassi". All'interno appunto trovate la teoria di Renato Farina, dopo magari ve ne leggo un pezzo perché mi ha veramente colpito. In ogni caso, Renato Farina dice sostanzialmente: gli italiani non sono stupidi, sanno scegliere. Come se qualcuno comunque, non vedo questa equazione tra il fatto che un regista sia accusato di molestie e quindi non si scelga di non andare a vedere il suo film. Eccolo qua, guardate, vi leggo la prima parte. "Viva il popolo, anzi la popolazione. Quella trattata come ignorante, una specie di plastilina cerebrolesa da modellare secondo le idee giustizialiste dominanti, ma che invece è coriacea, ha l'anima dura, pensieri semplici ma forti, e resiste alle lusinghe delle schiere angeliche, attenzione, di queste femministe pelose e dei loro maschietti da riporto. La notizia a cui mi riferisco è questa: il film più visto in Italia è stato Poveri ma ricchissimi di Fausto Brizzi. L'incasso del 25 dicembre ha sfiorato il milione e le presenze sono state 125.275. Non è roba da poco. Se c'è una prova inaspettata e definitiva della lontananza della gente comune dalle pretese moralistiche della creme che comanda e pretende di disegnare gli schemi di gioco della nostra vita e dei giudizi sul prossimo, è proprio la graduatoria d'incasso dei film di Natale". E vabbè. Il Foglio ha un bel ricordo di firmato da Camillo Langone di Gualtiero Marchesi, che, come avete sentito anche dalle parole di Marta Cagnola nel GR, è scomparso ieri, ma in prima pagina anche un'analisi del direttore del Foglio Claudio Cerasa sulla vicenda della spazzatura a Roma. Sapete che Roma, tramite la regione, come ha spiegato il sindaco Raggi, per cercare di evitare alcune delle polemiche che sono subito sorte, appunto la Roma tramite la regione ha chiesto a Parma, dove c'è un termovalorizzatore, di smaltire parte dei rifiuti che non riesce a smaltire. Allora si chiede Claudio Cerasa: cosa succede quando una città è vittima della sua ideologia populista? La scazzottata Raggi-Pizzarotti ci dice molto sull'irresponsabilità e la demagogia del governo grillino. Storia di un modello travolto dai rifiuti assieme a 200 milioni di euro. Ma passiamo alle... vi dicevo, domani cercherò di magari farlo in un modo un pochino più approfondito. Stamattina ho velocemente dato uno sguardo alle prime pagine dei giornali stranieri. Sul New York Times c'è molta politica interna, perché da una parte sapete l'approvazione della legge, della grande legge che introduce un maxi taglio delle tasse, una legge fortemente voluta da Donald Trump e ora approvata da entrambi i rami del Congresso americano, contiene anche una parte che riguarda l'Obamacare, e quindi si torna su questo. New York Times, un po' che non guardavo la prima pagina, è impressionante, perché ci saranno 10 articoli, tutti sostanzialmente critici verso l'amministrazione Donald Trump. Difficile, insomma, io tanti anni che sono registrata al New York Times e non ricordo uno schieramento così palese, perché sembra quasi che non ci siano più articoli di fatto, ma siano quasi esclusivamente articoli di commento, schierati appunto contro le politiche del governo di Trump o degli stati dove ci sono dei repubblicani molto vicini a lui. Le Figaro invece si occupa anche in questo caso di politica interna, nel senso che si occupa molto di Macron e dei rapporti incrinati che ci sono tra la Francia e l'Iraq in questo momento, e poi c'è una bellissima fotonotizia di Putin, perché Putin vestito mentre gioca una partita da hockey, quindi vestito da hockeyista, e naturalmente il senso, il racconto è quello che c'è anche su molti giornali italiani. Dell'esclusione di quello che poteva essere uno dei suoi rivali, Navalny, alle prossime presidenziali, e del fatto che probabilmente lui vincerà per la quarta volta appunto un mandato come presidente della Russia. El País fa una specie di carrellata degli eventi che considera i più importanti del 2018. Al primo posto c'è naturalmente la vicenda della Catalogna e della richiesta di indipendenza da parte di una buona maggioranza, secondo le ultime elezioni, degli abitanti della Catalogna. Poi c'è un altro fatto che El País considera importante del 2018, ma anche come segnale di crescenti divisioni nel mondo, che sono appunto le politiche di Trump. E poi, secondo El País, del 2017 e quindi poi per il 2018, continuerà questa rinascita un po' di un movimento che, per semplificare, possiamo chiamare nuovo femminismo, ma che appunto fa delle rivendicazioni. Sappiamo tutti gli scandali sulle molestie sessuali che sono emersi un po' in tutto il mondo, a partire naturalmente da quello del mondo cinematografico americano, con il caso del produttore Harvey Weinstein, ex Deus Ex Machina della Miramax. Ci fermiamo però un attimo per una breve pausa, in cui sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, sms o whatsapp al 349-238-6666. Vi ricordo anche il mio account Twitter, che è @Giulia_Crivelli. Grazie naturalmente a tutti quelli che mandano messaggi più o meno gentili, e mi ero un po' disabituata invece a ricevere quelli un po' meno gentili, come l'ascoltatore che non si ferma ma dice: chi cazz'è questa ritardata? E vabbè, mi trovo una ritardata. Era l'ultima, però torniamo un attimo ai giornali stranieri. Vi segnalo la Frankfurter Allgemeine Zeitung con una notizia, un sondaggio. Anche in Germania si stanno facendo molti sondaggi, perché sapete che la Germania non ha ancora un governo, perché dopo le politiche vinte dalla CDU di Angela Merkel non si è ancora riusciti a formare una coalizione di governo, e quest'ultimo sondaggio indica che a questo punto un tedesco su due vorrebbe che la Merkel facesse un passo indietro, perché in questo momento forse è anche lei l'ostacolo alla formazione di un governo che probabilmente non sarà più una grosse coalizione, ma qualche cosa di diverso. Ma andiamo alle pagine interne. Vi segnalo la copertina del dorso della sezione di imprese e territori del Sole 24 Ore, tutta dedicata all'energia. Da una parte l'articolo di Jacopo Giliberto, che di energia sa veramente tutto, sostenibile, non sostenibile, verde, da fonti non rinnovabili, e quindi sono sempre interessanti i suoi articoli, specie quando sono un po' di scenario. Qui per esempio riguarda una centrale sarda, che doveva essere una centrale per l'energia del sole. Il governo ferma la centrale sarda. Il progetto prevedeva la posa di specchi su circa 250 ettari di terreno agricolo. Sono state accolte le richieste della regione, dei comitati, e torniamo un po' anche al tema del paese dei veti. E quindi questa tecnologia, che era stata già sperimentata con successo dall'Enea e dall'Enel a Siracusa, non potrà essere utilizzata in Sardegna, e per i lavoratori si apre la cassa integrazione. Anche un aggiornamento sulla vicenda Ilva, di Domenico Palmiotti da Taranto. Ilva, Taranto e Mise vicini all'intesa. Invece la sezione di finanza e mercati si apre con un'intervista all'amministratore delegato del Banco BPM Giuseppe Castagna, fatta da Alessandro Graziani, dove si parla anche dei famigerati NPL, i non performing loans, cioè i crediti non esigibili. Ci sarebbero in cantiere 3 miliardi di cessioni in più. E poi, visto che stasera, tra poche ore, si gioca il derby Milan-Inter, è una partita di Coppa Italia, ma è comunque un derby, e Carlo Festa ce lo racconta un po' con un angolo Sole 24 Ore, il titolo è questo: derby da 660 milioni di debiti. Ci sono i debiti appunto dell'Inter, ma anche quelli del Milan. Intanto i nero-azzurri hanno anche messo un bond, perché parlavamo prima del ruolo della finanza, sempre più importante anche nel calcio e nello sport in generale, e questo bond è andato tutto esaurito. Vi dicevo, l'intervista al ministro Carlo Calenda sul Corriere della Sera, la trovate a pagina 3, l'ha fatta Lorenzo Salvia. E dice: la bocciatura del referendum, quello che portò alle dimissioni di Matteo Renzi dal governo all'inizio di dicembre del 2016, la bocciatura del referendum non fermi le riforme, quindi le riforme costituzionali, e per quanto riguarda l'Ilva e questi ritardi nella trattativa, Calenda torna a definirli con molta durezza inauditi, e auspica un'alleanza per le prossime politiche tra il Partito Democratico e Emma Bonino, che in realtà però ieri, vedrete su altri giornali, anche per chi vuole sfogliare le pagine di politica interna, in realtà ieri ci sono state delle perplessità da parte della stessa Bonino sulla fattibilità di questa alleanza. Vi segnalo, visto che abbiamo detto della scomparsa di Gualtiero Marchesi, sul Corriere della Sera un colloquio con Davide Oldani, che ormai gli ascoltatori di Radio 24 hanno imparato a conoscere proprio anche da queste, per la trasmissione che conduce insieme a Pierluigi Pardo al sabato sulla nostra radio. E quindi Davide Oldani, che ricorda, viene definito l'allievo Oldani, e c'è questo virgolettato: Gualtiero stava alle spalle per insegnarti cos'è la perfezione. Mi ha preso con sé che ero un ragazzino, io l'ho sempre chiamato signor Marchesi. E poi, visto che abbiamo parlato di Russia, ho trovato molto interessante questo racconto di Rosalba Castelletti da Mosca, che si concentra sulle start-up, cioè quelle aziende che per start-up si intende un'azienda che è molto giovane e che in generale opera nella tecnologia, ma non necessariamente, e quasi sempre sono fondate e portate al successo da imprenditori altrettanto giovani, ma qui addirittura sono minorenni. La startup Russia che fa affari più che politica, neanche maggiorenni, già imprenditori grazie a Vladimir e per nulla rivoluzionari. E ci sono quattro esempi: Viktor Vlov, che ha 17 anni e si occupa di imprese edili, pensate; Anastasia Russu, che anche lei ha 17 anni e si occupa invece di un servizio di torte su ordinazione; Irek Makhmutov, anche lui 17 anni, che ha addirittura si occupa di startup che a loro volta si occupano solo di prodotti per bambini, e quindi per esempio ha aperto questa azienda che si chiama Kids to Kids, che produce giocattoli in legno; e poi Timur Kuzmin, che ha addirittura 15 anni e si occupa di organizzazione di tornei, in particolare quello di maggior successo si chiama Vortex Sport, dove si affrontano atleti di diverse arti marziali, e la prima edizione di questo torneo gli ha fruttato 17.000 euro. A proposito di, come lo chiamava Renato Farina su Libero, perché giustamente un ascoltatore mi ricorda che, ma mi sono corretta già nel frattempo, che Renato Farina scrive su Libero e non sul giornale, come chiamava, diceva femminismo peloso. Ecco, allora a proposito di questioni di molestie sessuali, un approfondimento, un aggiornamento sulla vicenda di Francesco Bellomo, consigliere di Stato, che è accusato di molto più che molestie sessuali. L'aggiornamento lo trovate a pagina 16, lo racconta Liana Milella, che è esperta di cronaca giudiziaria. Bellomo imponeva alle allieve il contratto di schiavitù sessuale. Ci sono nuove accuse da parte di altre studentesse che accusano appunto questo magistrato. Vi leggo la maca di Michele Serra, che torna sul tema dello Ius Soli, perché tocca secondo me una questione importante che non riguarda solo lo Ius Soli, e cioè il significato di alcune significato proprio di alcune mosse, di alcune o anche l'importanza delle parole che magari contano più poi dei reali effetti di alcuni provvedimenti. Scrive Michele Serra: il deputato Dem Ivan Scalfarotto spiega sul Post, con buone ragioni tecniche, perché l'affondamento dello Ius Soli in Senato non è attribuibile al PD ma ai 5 Stelle. Anche se il gruppo Dem fosse stato presente al completo, segnala Scalfarotto, sarebbe stato inutile. Mi permetto di dissentire. Sarebbe stato inutile agli effetti del risultato contabile. Sarebbe stato invece molto utile sotto il profilo politico, nel nome di quel principio di rappresentanza che lega ancora, seppur febbrilmente, gli elettori ai partiti. Riconoscersi in certe questioni di principio, di questo si tratta, aiuta a riconnettere almeno qualche filo di un discorso politico ormai cortocircuitato. Presentarsi in massa per votare lo Ius Soli, indipendentemente dal risultato, sarebbe stato né più né meno un bel gesto, di coerenza prima di tutto e di alto valore simbolico e perfino identitario, come per dire: la sinistra è questa roba qui, è sentirsi concittadini dei figli di immigrati che sono già italiani di fatto. Il problema è che nel PD questa fondamentale funzione di un partito, rappresentare i valori di chi lo ha votato, evidentemente sfugge. Certo non a Scalfarotto, che sui diritti civili è sempre stato in prima linea, ma ad altri sì. Il problema è che non si rendono conto, questi altri, quale prezzo politico ed elettorale fanno pagare al PD. Credono di saper fare i calcoli, ma non è vero. Contare i voti al Senato non è come contarli alle urne. E su questo tema, sul perché il PD innanzitutto non si sia presentato in Senato, poi abbia giustificato tramite alcuni suoi esponenti, come Ivan Scalfarotto, questa decisione col fatto che non avrebbe cambiato comunque l'esito. E poi però si scopre, a pagina 5 del Messaggero, ce lo racconta Diodato Pirone, che c'è un sondaggio che pare abbia molto influenzato le mosse del PD. Il 53% degli elettori sarebbero contro la cittadinanza, contro lo ius soli, e quindi dietro alla decisione dello stop queste ultime rilevazioni. Sempre dalle pagine interne vi segnalavo dall'Avvenire, richiamato in prima pagina, l'approfondimento sullo Yemen, lo trovate a pagina 7, la crisi nascosta tra guerra, fame e malattie. E naturalmente, oltre alla solidarietà, all'empatia che si può provare per un paese dove sotto le bombe da oltre 1000 giorni e con più di 1 milione di persone colpite dal colera, una delle più grandi epidemie di colera che si ricordino, lo Yemen è anche una, se lo si vuol guardare, come possiamo dire, in un modo un pochino più cinico o egoistico, è anche un paese molto importante per gli equilibri della regione. E quindi ci ricorda, per esempio, l'Avvenire in una scheda che ci sono stati oltre a questi raid aerei che mettono ancora una volta a confronto le posizioni degli Stati Uniti, della Russia e di alcuni paesi del Medio Oriente. Sempre dall'Avvenire una segnalazione che viene dalla Cina, guardiamo sempre la Cina come un'economia che a seconda dei calcoli è già la prima al mondo oppure è la seconda subito dopo gli Stati Uniti, ma c'è tutta quella parte che riguarda la libertà, la democrazia come la intendiamo noi, che a volte ci dimentichiamo. Ecco per esempio la vicenda di un blogger definito scomodo che ha avuto 8 anni di carcere, un processo segreto lontano dai media, dall'attenzione soprattutto dei media occidentali, e la condanna tecnicamente è per sovversione. Si chiama Wu Gan, fu arrestato nel maggio del 2015. Il suo avvocato dice: un monito a quanti si battono per la libertà. E vi dicevo dei movimenti militari così ogni tanto ci dimentichiamo. Ecco per esempio La Stampa ci ricorda a pagina 9: base in Siria, manovre navali, Putin torna a mostrare i muscoli. Un altro aspetto dell'attivismo internazionale, forse in mancanza di un altrettanto di un simile attivismo da parte invece degli Stati Uniti, di Putin sullo scacchiere internazionale. Ci lasciamo un attimo per l'ultima pausa sul traffico. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie davvero a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o WhatsApp o SMS. Vi segnalo sempre dalla Stampa che insieme all'Avvenire, forse il giornale che ha lo sguardo più ampio sul mondo, c'è un bel reportage a pagina 12 di Francesco Radicioni dalla Cambogia. La Cambogia che archivia Pol Pot, cioè l'epoca del comunismo, con selfie, Porsche e fast food. I giovani di Phnom Penh, la capitale della Cambogia, sono contagiati dal consumismo e dai soldi cinesi. Nel weekend, per esempio, e c'è una foto che lo dimostra, si affolla i centri commerciali, e in particolare il più grande della capitale, che si chiama Aeon Mall Chi, dove si va anche soltanto per fare i famigerati selfie. Naturalmente su tutti i giornali trovate gli approfondimenti sullo smog, soprattutto in Lombardia è di nuovo a livelli altissimi, qui oggi piove quindi forse la situazione migliorerà un pochino, ma sempre dalla Stampa anche uno sguardo di Fabio De Ponte sull'economia giapponese. Tokyo vicina alla piena occupazione, quindi forse è davvero finita questa lunga recessione che aveva bloccato un po' l'economia giapponese. I senza lavoro sono al 2,7% ed è il minimo dal 93. Il rapporto tra offerta e domanda di impiego sale al livello più alto dal 1974 e all'interno si spiega anche come comincia a essere l'effetto di medio termine, perché le politiche economiche devono avere il tempo per dare i frutti di quella Abenomics, così denominata dal nome del premier Shinzo Abe, che iniziata anni fa e che ora appunto forse comincia a dare i suoi frutti, se non altro in, sul piano dell'occupazione. E scusatemi ora, perché all'inizio ho detto, ma provo a tenerla per ultima questa notizia, però così per un po' di leggerezza, sempre dalla Stampa, un articolo molto divertente di Alberto Mattioli, nei palazzi del potere dove comandano i gatti. E perché questo titolo? Perché ci sono i gatti Nomi e Noè, che sono un po' sono di cittadini di fatto, inquilini di fatto del Ministero degli Esteri francesi, e poi c'è Larry, che è il micio di Theresa May, che è stato dichiarato funzionario di Stato, e ci sono altre foto di altri gatti molto famosi. Per esempio c'è uno che forse non è meno conosciuto di altri, come quello di Downing Street, si chiama Lawrence, e il suo nome viene da Lawrence Arabia, ed è il diplogatto che caccia i topi nell'ambasciata britannica di Amman in Giordania. Scusate questa digressione, ma insomma chi da un po' magari mi conosce, se mi segue, sa che ho questa insana passione per tutti gli animali, e in particolare per i gatti, che sono gli unici che posso tenere in casa. Dal Fatto Quotidiano vi segnalo un approfondimento su una vicenda di cui si è parlato nei mesi scorsi e di cui si ricomincerà a parlare, perché è fissata un'udienza per il 5 di marzo, ed è quella dell'ENI in Nigeria. Il processo, così secondo Il Fatto, che può cambiare il capitalismo italiano. I giudici devono stabilire, e appunto dobbiamo ancora aspettare marzo, se pagare un governo metta al riparo dalle accuse di corruzione oppure no. Da questo dipendono i destini di molte imprese che operano in Africa e Asia. E poi questo è un tema che io personalmente metterei ogni giorno sui giornali, ed è quello dello stato dei paesi, delle regioni colpite dai terremoti nel 2016 e nel 2017. In questo caso sul Giornale, a pagina 11, un reportage di Antonella Aldrighetti: gelo, macerie e ritardi per i terremotati, un altro Natale triste. 18 mesi dopo il terremoto, in questo caso è Accumuli, che è il paese dove ci fu l'epicentro e ci furono 299 morti nel 2016. 18 mesi dopo manca l'acqua calda, ci sono infiltrazioni, le casette restano poche. Pensate che sono ancora 17.000 gli sfollati e sono senza un tetto sulla testa. Poi qui il titolo di Libero, io non lo so, sicuramente ci sarà qualcuno che apprezza questi titoli. Io non so, li trovo proprio inutili, non capisco perché si debba sempre cercare la metafora sessuale. In ogni caso, pagina 5 di Libero, lungo articolo di Salvatore Dama intitolato "Rocco Siffredi vuole farsi il centrodestra". Il celebre porno divo si è detto pronto a correre con Forza Italia se Berlusconi dovesse offrirgli un posto in lista. Domani arriveranno sul tavolo del Cavaliere i nomi degli aspiranti candidati scelti dai coordinatori regionali azzurri. Questo naturalmente, quello della scelta dei candidati, è un tema che riguarda Forza Italia e il centrodestra, ma anche naturalmente tutti gli altri partiti. Sui giornali, ripeto, per chi ha voglia e stomaco di leggere le pagine dedicate alla politica italiana, si racconta anche appunto di che cosa sta succedendo nella scelta delle liste, sia all'interno del Movimento 5 Stelle che del centro-sinistra. Dal Foglio vi segnalo, dalle pagine interne, anche in questo caso Il Foglio spesso ha così delle chicche di politica estera o comunque di cronaca che viene dall'estero, e Foglio sempre molto attento alle questioni che riguardano l'antisemitismo in particolare, e a pagina 3 del Foglio trovate questo articolo che si intitola "Il negazionismo insegnato ai bambini", e scopriamo che c'è questa rivista francese che si chiama UP, dove appunto tra le cose che vengono scritte è che Israele non è un paese vero, testuale, non è un vrai pays, appunto, è quanto ha sostenuto la celebre rivista francese per bambini UP, che nel suo ultimo numero ha pubblicato una cartina geografica del mondo con la seguente leggenda: Questi 197 paesi, tra cui la Francia, la Germania e l'Algeria, sono chiamati stati. Ne esistono anche altri, ma tutti gli altri paesi del mondo non sono d'accordo per dire che sono dei paesi veri e propri. Per esempio, lo Stato di Israele e la Corea del Nord. Succede anche questo. Viene scritto anche questo. Dal supplemento di economia del Corriere della Sera vi segnalo un interessante approfondimento su un'altra questione di cui ci occupiamo un po' tutti a corrente alterna, che è quella dell'Alitalia. Il personaggio raccontato da Antonella Baccaro è Luigi Gubitosi, che viene definito il manager travestito da commissario. Nei corridoi dell'azienda lo chiamano San Luigi. Al netto delle critiche sindacali ha stabilito un rapporto amichevole con i dipendenti e li ascolta. Altro che gestire l'emergenza, fa piani a lungo termine, compresa l'Africa, le rotte per l'Africa. Ma il governo vorrebbe chiudere i negoziati ben prima delle urne per poter dire basta con i salvataggi pubblici a chi va a votare. Vediamo altri articoli che ho messo da parte, abbiamo ancora qualche minuto, un pochino più leggeri. Sul Corriere della Sera Paolo Mereghetti, uno dei critici cinematografici del Corriere della Sera, parla molto bene dell'ultimo film di Özpetek che si chiama Napoli Velata, dove racconta anche di quanto sia ottima la prova di Giovanna Mezzogiorno, anzi la definisce una prova straordinaria e dà al film 3 stelle su 4, che per Mereghetti insomma è notevole. A proposito non di calcio ma di sci, un'intervista al presidente della federazione Roda, che dice c'è un buco generazionale nella squadra di sci alpino azzurro, ma ci stiamo mettendo una pezza. I talenti ci sono, poi si perdono. L'atleta italiano matura più tardi. Insomma, un po' bamboccione, secondo. E poi una notizia che ci riguarda anche, riguarda, sapete, l'evoluzione della radio nel DAB. Il Valentina Avon a pagina 21 della Repubblica: onde FM addio, la radio suona digitale. Il primato spetta al Tirolo, che ha spento i primi ripetitori, ma presto toccherà al resto d'Italia, con un obiettivo: stazioni nazionali in DAB entro il 2020. Naturalmente questo migliorerà soprattutto la qualità del suono. E ancora una volta dimostra quante vite abbia la radio, e si fa spesso il paragone col fatto che la radio fu data per morta quando emerse con forza la televisione, e naturalmente non è successo, e quindi lo stesso potrebbe valere per la carta stampata, per la stampa in generale, nonostante il ciclone di internet che naturalmente ci ha obbligati e ci obbligherà a cambiare, ma che non necessariamente ci azzererà, speriamo. Il supplemento del Messaggero Macro è dedicato alla questione dei donatori di organi, sempre più donatori e record di trapianti. Con una maratona, si parte da questo fatto di cronaca, con una maratona chirurgica nella notte di Natale a Torino, 3 vite sono state salvate grazie all'impianto di polmoni, reni e fegato. Un intervento straordinario, ma non è la prima volta. In Italia sono in crescita i consensi all'espianto, in un anno oltre il 18%. Sapete che ci si può per esempio iscrivere all'Associazione Italiana Donatori Organi e poi tenere con sé sempre una tesserina dove in caso appunto di necessità e di possibilità di espianto, questo viene eseguito dando la possibilità di far vivere gli organi in un'altra persona. Molto bello l'approfondimento su Avvenire sul Giappone, perché prende spunto da alcuni libri di fotografia, in particolare Giappone perduto, anzi no, il racconto del fascino orientale, dalle prime stampe di fine 800 di Felice Beato agli anni 70 di De Biasi allo sguardo di oggi, quindi i grandi fotografi italiani anche che con il loro sguardo sul Giappone. Ultima segnalazione, abbiamo detto sulle Figaro, c'è questa foto di Vladimir Putin tenuta da hockey, l'Avvenire fa un approfondimento su questo sport che viene definito la Cenerentola miliardaria dello sport. Fondata nel 1917, la Lega professionistica nordamericana non ha i numeri stellari del basket, eppure è quella più all'avanguardia, come con le gare online. Era però l'ultima segnalazione per oggi, noi ci risentiremo ancora per questa settimana, poi da settimana prossima torna Luca Telese, dopo di me c'è invece Oscar Giannino. Ancora una buona giornata, un grazie a Paolo Corleoni in regia, e ancora una buona giornata a tutti da Giulia Crivelli.